Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale appuntamento con i periodici in edicola. Allora vediamo che cosa ci propongono questa settimana di particolarmente interessante. Innanzitutto non so quanto capiate voi, quanto capiscano gli ascoltatori di matematica finanziaria, io devo confessare non ne capisco praticamente nulla, però mi sono voluto cimentare nella lettura di un articolo che trovate su Wired italiano, che è arrivato ad aprile al secondo numero. Ne avevamo parlato anche in occasione del primo numero di questa testata. Ecco, questo articolo è interessante perché si occupa di una formula matematica che sarebbe stata all'origine della crisi finanziaria, poi diventata crisi economica. La formula del crack, la formula suona più o meno così: P è uguale a Φ, aperta parentesi, A virgola B virgola Y, chiusa parentesi. Spiega un po' più chiaramente il sommario. Li chiamavano quant, erano brillanti ingegneri finanziari. Negli anni 80 Wall Street li ha ingaggiati per inventare forme più sofisticate di fare soldi. Uno di loro ha creato un modello matematico per misurare i rischi, un modello alla base del tracollo americano. Questa è la informazione. L'articolo è lungo, molto interessante, vi riassumo il concetto principale. Dietro alla gestione dei prodotti derivati della finanza, che poi, ohimè, sono crollati, c'era una formula che era stata messa a punto da un mago della matematica, un cinese, David Li, astro della matematica, cresciuto nella Cina rurale intorno alla metà degli anni 60, il quale appunto si era trovato nella metà degli anni 80 a lavorare nelle strutture di investimento di Wall Street. Qui lì ha messo a punto una formula particolarmente semplificata che serviva a gestire il principio di correlazione. Che cos'è il principio della correlazione? Allora qui lo spiegano molto bene, molto chiaramente. Dice: pensate a qualcosa di semplice, come una ragazzina delle elementari, chiamiamola Alice. La probabilità che i suoi genitori si separino quest'anno è pari al 5% circa, il rischio che prenda i pidocchi è pari al 5% circa, la possibilità che veda un insegnante scivolare su una buccia di banana è pari al 5% circa, e così via. Ma se consideriamo due bimbe invece di una, non solo Alice, ma anche la sua compagna di banco, Britney, accade una cosa fondamentale. Se i genitori di Britney divorziano, quali sono le possibilità che anche i genitori di Alice divorzino? Ancora circa il 5%. La correlazione qui è vicina allo zero. Ma se Britney prende i pidocchi, la possibilità che anche Alice prenda i pidocchi sono molto più alte, cioè circa il 50%. A cosa serve tutto questo ragionamento? A spiegare come si spalmava il rischio, come si spalma il rischio nei prodotti derivati. Ci sono degli eventi che sono legati tra loro e degli eventi che non lo sono. Quando questi eventi, appunto come il fatto di non rimborsare un mutuo, avvengono tutti insieme, può darsi che la correlazione ingigantisca poi il rischio. Lì il matematico cinese ha messo a punto una formula che consentiva di semplificare la gestione, ma una formula che, ohimè, non era considerata assolutamente perfetta. Come tale è stata trattata e purtroppo in qualche modo ne abbiamo pagato le conseguenze. Forse era tutto un problema di studio frettoloso della matematica, non naturalmente da parte di Li, ma da parte degli analisti finanziari. Restiamo su Wired perché ancora su Wired di aprile c'è una rubrica interessante, si chiama Parole alla Crusca, i nuovi vocaboli al vaglio dell'Accademia Fiorentina. Scannerizzare è la parola. Scannerizzare non è una parola nuova, ma la curiosità intorno al suo uso si rinnova continuamente. Esiste una costellazione di parole: scandire, scannare, scannerare, scannerizzare, scansionare, scansire, che indicano la stessa azione, cioè usare uno scanner. Per suggerire una scelta non si può dimenticare il punto fondamentale. Si tratta di tecnicismi, quindi è rilevante che il termine adottabile sia il più possibile univoco, un solo significato, e che sia trasparente. La forma stessa della parola deve suggerirne il significato. Quindi scannare direi proprio di no, scandire ugualmente appare debole, spiega questa rubrica. Quanto a scansionare, non è verbo ambiguo, ma la sua derivazione da scansione lo rende più generico di scannerizzare. Quindi quest'ultimo, fortemente legato al nome dell'oggetto tecnico scanner, è trasparente e univoco. Quindi già nel 94 Giovanni Nencioni, che era allora presidente dell'Accademia della Crusca, aveva accolto bene il tecnicismo scannerizzare. Un effetto inatteso della crisi, abbiamo parlato della matematica e della crisi, ma c'è un effetto inatteso che viene segnalato da Newsweek. Newsweek di questa settimana dice che è tornata la voglia di insegnare, di andare a scuola a fare gli insegnanti. A chi? Ai manager che hanno visto vanificare il loro posto di lavoro, hanno perso il posto di lavoro. Perché questo? Perché ovviamente negli stati come il Regno Unito o gli Stati Uniti è possibile che i lavoratori che perdono il posto di lavoro possano mettersi a disposizione le scuole per insegnare, ed è quello che sta più o meno accadendo, perché qui si racconta la storia di una signora, nell'articolo che trovate su Newsweek a firma di Jean Ann Brownell, Lina Bilimoria, che ha perso il suo lavoro di lei lavorava nell'information technology, quindi di manager dell'informatica, e ha deciso di mettersi a disposizione delle scuole. Si sta preparando perché in realtà ha trovato tutto prenotato fino al 2010, quindi sta adesso preparandosi per diventare una insegnante di scuola elementare. La lista delle, spiega Newsweek, delle persone che si sono messe a disposizione in questo modo a Londra è particolarmente nutrita e provengono tutti dal settore dell'economia e della finanza. La situazione è simile anche negli Stati Uniti e non è una novità in qualche modo, perché si nota storicamente che nei periodi più difficili, nei periodi di crisi, c'è una maggiore offerta, una maggiore disponibilità a insegnare, diversa da quanto non ci sia invece nei periodi in cui le cose vanno bene. E questo è quello che viene riferito appunto in un'osservazione condotta in Gran Bretagna e negli Stati Uniti tra il 1960 e il 2000. Questa è la segnalazione che ci viene da Newsweek di questa settimana. Allora, la crisi naturalmente cambia un po' anche i nostri stili di vita. Ci sono due settimanali in edicola questa settimana che ci parlano di questo cambiamento di stili di vita low cost, è il titolo dell'inchiesta proposta da Panorama, vivere low cost, appunto perché ci sono sette tribù, secondo Panorama, che prova quindi anche una identificazione sociologica di questa sobrietà imposta, più che scelta, verrebbe da dire. I tipi umani che sono poi rappresentati nell'inchiesta di Guido Castellano con Cristina Bassi sono il viaggiatore, autospartano, naturalmente autoessenziale, il modaiolo, cioè colui che sta attento ai vestiti, il genitore che opera, si semplifica qui, tra gruppi solidali d'acquisto e scambi anche baratti, il tecnologico che è entrato nell'era del mini computer, il biogustaio, questo neologismo per indicare coloro che preferiscono servirsi dell'orto in casa, e poi ancora il casalingo che punta sull'energia solare, e infine il previdente, chi fa da sé fa per tre, è la spiegazione sostanzialmente, chi si affida soprattutto a internet per cercare di risparmiare, di contenere i costi delle sue spese. La voglia di risparmiare, vi dicevo, non è solo una prerogativa che trovate su Panorama questa settimana, perché in realtà anche Famiglia Cristiana dedica un inserto alle famiglie e la crisi, quindi meno modaiolo, meno di tendenza, ma ugualmente così interessato alla volontà, alla voglia e alla necessità anche di spendere meno ma meglio. Questo è il titolo dell'inserto curato da Renata Maderna su Famiglia Cristiana di questa settimana. Anche se colpisce solo altri, dice il sommario di questo titolo, meno ma meglio, la crisi fa riflettere anche noi, adottiamo uno stile più sobrio, e lo speciale appunto segnala delle storie, delle esperienze di vita vissuta, che dicono appunto dalle famiglie un po' di tutta Italia come si sta affrontando questo momento per ridurre le spese, specialmente anche su questioni come gli alimentari o le spese di prima necessità. Perché tutto questo? Questo perché pare che le città diventino sempre più costose, infatti è una classifica che è apparsa giovedì sul magazine del Corriere della Sera. Le città, quali sono le città più costose nel mondo? Sono Tokyo, Osaka e Parigi, esattamente in quest'ordine, quindi due città giapponesi. L'indagine sul costo della vita urbana è stata realizzata dall'Economist Intelligence Unit, che è il centro di ricerca dell'Economist, il settimanale britannico che citiamo spesso anche in questa trasmissione, da sottolineare spiega il magazine del Corriere della Sera, l'assenza dalle prime file di New York, che sta al 23° posto, e di Londra, che si colloca al 27°. Sono da sempre considerate metropoli dove bisogna troppo spesso mettere mano al portafoglio. Per quanto riguarda le città italiane, la prima in classifica è Milano, al 14° posto, e scende di 2 posizioni rispetto agli anni precedenti. Roma invece si arresta al 29°. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, le riviste, i periodici in edicola questa settimana comprendono anche qualche proposta nuova. Vi ho parlato prima del secondo numero di Wired, vi segnalo il secondo numero di Storica, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, la rivista del National Geographic, il numero 2 è in edicola, questa volta a 3,50€, è sempre un prezzo ridotto rispetto al prezzo normale di copertina. È in edicola con il Sole 24 Ore da ieri anche il mensile 24. Come sapete, il mensile sulle tendenze, sulla moda del Sole 24 Ore, lo trovate in vendita con il quotidiano. La parola del mese, 24 ha sempre una parola del mese, è questa volta trasparenza, declinata un po' in tutti i sensi. Chi avesse visto ieri la prima pagina del Sole 24 Ore avrà notato questa storia curiosa raccontata da Chiara Somaini, in cui si parlava di questa macchina della verità che sarebbe in grado di tradurre in parole i nostri pensieri, appunto un collegamento particolare con alcune zone del nostro cervello che renderebbe possibile leggere anche il pensiero. Questo è il tentativo che si sta facendo. Trovate il servizio in dettaglio su 24. Il servizio comincia da questo caso accaduto in India. 2 anni fa Aditi Sharma, che era ammessa all'Indian Institute of Model Management di Pune, si innamora di Pravin, un suo compagno di master, lascia il fidanzato. I 3 si incontrano al McDonald's, dove il fidanzato lasciato muore avvelenato da un dolce all'arsenico. Al processo i 2 si dicono innocenti, ma nel giugno 2008 vengono condannati al carcere a vita. L'affare è molto seguito dai media locali, ma questa non è ancora la notizia. La notizia è che è stata ottenuta la condanna di Aditi, la ragazza, grazie a una prova scientifica, per dir così. Il cervello della ragazza contiene una conoscenza esperienziale propria solo di chi era al corrente dei preparativi. Prova trovata con il consenso della giovane, con un programma informatico capace di leggere nelle onde cerebrali. Per il giudice questa prova è stata inoppugnabile e in India, come nel resto del mondo, la questione è stata analizzata anche in Italia, come appunto riferisce 24 nel numero che trovate in edicola da ieri con il Sole 24 Ore, e ci sono stati dei convegni, c'è stato il primo convegno italiano di neuropolitica e di neuroetica. C'è molto molto scetticismo, e questo viene riferito da 24, sulla possibilità che tutti questi studi abbiano poi un qualche fondamento. Ancora sul tema delle trasparenze, una bella introduzione di Giuseppe Culicchia, che parla della nascita e morte al tempo di Facebook, quindi trasparenza nel senso quasi dell'essere in vetrina proprio della nostra epoca. Dice: poco tempo fa ho scoperto per caso che su Discovery Real Time e Fox Life vanno in onda un paio di programmi intitolati rispettivamente Reparto Maternità e Bimbi Fatti in Casa. Entrambi mostrano donne che partoriscono, dunque neonati che vengono al mondo senza l'ombra di un cavolo o di una cicogna. Culicchia spiega che dice: non è che io a quasi 44 anni credo ancora cavoli e cicogne, però lì sono diventato padre da poco, e proprio lì in sala parto ho scoperto che ostetrica e ginecologo erano un po' stupiti perché non mi ero portato dietro una videocamera. Sia come sia, quando mi capita di andare a sbattere in reparto maternità o in Bimbi Fatti in Casa, cambio subito canale. Non giudico la qualità dei programmi in questione, è solo che non mi va di assistere a uno dei momenti più privati nella vita di essere umano, se l'essere umano in questione non è un mio consanguineo. D'altro momento va da sé, non è quello della nascita ma il suo opposto, cioè la morte. C'è sempre: poco tempo fa ho scoperto che appunto un artista tedesco sta pensando di proporre a un museo un'installazione che dovrebbe mostrare appunto la dipartita, la morte di un uomo. Su tutto questo si concentra Giuseppe Culicchia dicendo: è facile prevedere che questo tipo di esibizione potrebbe avere un gran successo di pubblico, Ma nel momento in cui i confini tra pubblico e privato si fanno sempre più evanescenti e tra le altre cose ci si pente a posteriori per tutto quello che si è raccontato sul proprio conto su Facebook, senza sapere che lo si faceva per l'eternità, ecco, per ciò che mi riguarda, io ho avuto la fortuna di nascere poco dopo la metà del secolo scorso, un'epoca in cui non usava filmare certe cose e non ho nessuna intenzione di presentarmi volontario per l'installazione di Herr Schneider, cioè questo artista che pretenderebbe di mettere in scena la dipartita di un uomo. Sui settimanali si parla molto e probabilmente sarà un argomento che tornerà di attualità, di evasione fiscale. Vi segnalo diversi servizi, se ne occupa l'Espresso con una preoccupante indicazione sulla difficoltà appunto di recuperare gettito, difficoltà che non sarebbe dovuta solo al lavoro, alla diminuzione di lavoro e quindi di fatturato, ma proprio a una tendenza all'evasione, segnala Michele Di Branco. Questo si vedrebbe dalla differenza tra il calo del fatturato vero e proprio, dell'andamento dell'economia, e il calo invece dell'IVA, che sembra più pronunciato. Di evasione si occupa anche Il Venerdì, che nella rubrica di Curzio Maltese, se la sinistra proponesse un patto contro l'evasione, dice tra l'altro Maltese, gli evasori italiani hanno una particolarità grottesca, sono moralisti, detestano la politica perché è corrotta e incapace, ma hanno fatto la fila nelle librerie per comprare la casta, indignati del ceto politico che costa al paese 3 miliardi di euro l'anno, quando loro la vera casta ne costano 300, questa è l'indicazione del Venerdì. E ancora su Panorama si parla di evasione e possibilità di aumentare le aliquote per i ricchi, se ne occupa Luca Ricolfi nella sua rubrica In Ultima Pagina, e dice: l'IRPEF non è Robin Hood, si crede che la giustizia distributiva passi per l'imposta sui redditi personali. Franceschini, il neo segretario del Partito Democratico, invoca l'aumento delle aliquote, ma se si vuole fare pagare la crisi ai ricchi, pochi strumenti sono meno efficaci, perché una tabellina anche che accompagna l'articolo di Ricolfi spiega che i redditi di IRPEF, ricorda che i redditi di IRPEF sopra i 120.000 euro sono lo 0,5% del totale, ma le auto di cilindrata oltre i 2.000 centimetri cubici sono il 6,5% del totale, le auto di potenza superiore a 85 kW sono il 12,6% del totale, quindi evidentemente qualcuno può vivere meglio di quanto la sua dichiarazione dei redditi lasci credere. E allora chiudiamo con una nota più leggera su Focus di questo mese, i pesci d'aprile, una rassegna dei pesci d'aprile più famosi. Attenzione, perché settimana prossima è il 1° aprile, quindi sarà una giornata in cui presumibilmente torneranno fuori questo tipo di scherzi. Ve ne segnalo alcuni. In Gran Bretagna nel 1982 il quotidiano Daily Mail fece credere che ci fossero stati posti in vendita 10.000 reggiseni che potevano provocare interferenze nelle televisioni. La cosa curiosa è che il capo della British Telecom ordinò un controllo sui reggiseni delle impiegate. Questo è uno degli effetti paradossali che si creano in questo tipo di scherzi. Attenzione appunto settimana prossima. Io con questa segnalazione di Focus ho concluso. Vi ricordo che oggi con il Sole 24 Ore trovate anche in vendita a Wall Street il DVD del film. Abbiamo parlato di crisi, quindi in realtà tutt'altra natura, anni 80. Ringrazio naturalmente per l'assistenza Valeria Bernardi per l'assistenza in regia e Daniele Casagrande e Vittoria Mussini per l'assistenza al programma. Vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo.